Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Preparatevi a un'invasione pacifica, quella degli Xeni. Del primo e capostipite di questa nuova classe di materiali dalle proprietà talvolta strabilianti sentiamo ormai parlare da un po' di tempo. Si tratta del grafene, è un materiale, lo sanno molto bene gli ascoltatori di Smart City, composto da un singolo strato di atomi di carbonio disposti a nido d'ape. È un materiale incredibilmente sottile e resistente, capace di condurre bene sia il calore che l'energia elettrica. La scoperta del grafene ha aperto tutto un nuovo campo di ricerca sui materiali bidimensionali che, si è capito, possono essere realizzati non solo col carbonio ma anche con altri atomi, addirittura altre molecole, dando origine a nuovi materiali con le proprietà più disparate. Tra questi materiali ci sono questi Xeni, appunto, di cui parleremo tra breve. Tra gli apripista di questo settore della ricerca c'è il nostro ospite, che è Alessandro Molle, ricercatore dell'Istituto di Microelettronica e Microsistemi del CNR. Buonasera Molle. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, senta, una nuova classe, diciamo, di materiali molto diversi fra loro. Sì, esatto, sono gli Xeni, dove questo nome è un po' roboante, comunque la X sta per indicare un singolo elemento e sono singoli elementi molto vicini al carbonio del grafene, quindi si va dal silicio al germanio, allo stagno e poi si può andare anche negli elementi vicini, fosforo, boro, bismuto, in modo da avere una intera classe di materiali. Ecco, con tutti questi elementi si è scoperto si possono realizzare questi fogli bidimensionali, no? Esatto. Con una struttura molto simile a quella appunto del grafene, ma con proprietà diverse. Sì, esatto, sono proprietà che possono, diciamo, essere così atomicamente aggiustabili, nel senso che uno li può comporre e manipolare perché vengono cresciuti in vuoto e gli atomi vengono messi proprio uno alla volta, quindi è un'auto-organizzazione di fogli con questi atomi. L'unica cosa è che rispetto al grafene non sono così stabili come i grafene, non si trovano in natura, devono essere sintetizzati. Ecco, e però voi riuscite sostanzialmente a comporli ad hoc perché abbiano le proprietà che vi interessano, e tra quelle più interessanti appunto ci sono questi materiali detti isolanti topologici. Nome fa un po' paura, che cosa sono? Beh, innanzitutto sono degli isolanti, come dice lo stesso nome, sono degli isolanti però nel corpo centrale. Cioè non conducono energia elettrica, normalmente, esatto, come la plastica. Esatto, sono quelli che noi fisici diciamo, sono dei materiali dotati di un gap energetico. Poi hanno una particolarità rispetto agli isolanti normali, che nei loro bordi, quindi ai confini di questi fogli passa una conduzione, per così dire, non dissipativa, cioè una conduzione ballistica. Cioè, normalmente quando si fa passare la corrente da un filo elettrico, questo si scalda, diciamo, esatto, così. E questi qua, non disperdono energia. Si dice che sono topologicamente protetti, nel senso che hanno una loro simmetria interna che proprio fa in modo che si formino questi stati di bordo. Questi stati di bordo permettono il passaggio, la conduzione di carica senza dissipazione di energia. E questo rappresenterebbe un bel traguardo. Direi proprio di sì, una cosa abbastanza rivoluzionaria, in effetti. Ecco, che cosa ci si potrebbe fare con questi Xeni, questi isolanti topologici, anzi? Beh, innanzitutto la nanoelettronica, perché uno può pensare in qualche modo di controllare la presenza di questi stati di bordo, quindi averli oppure non averli, passare da uno stato topologico ad uno stato che invece è banale, e in questo modo uno potrebbe creare un cosiddetto bit, quindi uno stato, certo, logico, e poi utilizzarlo in memoria oppure in dispositivi logici, e da lì si aprono delle prospettive immense, diciamo, nella nanoelettronica, nella computazione quantistica e quant'altro. Ecco, voi state già realizzando dei primi dispositivi simili, per esempio, ai cosiddetti transistor, che sono un po' le unità di base di qualunque microprocessore o apparato elettronico. Mi corregga se sbaglio, questi dispositivi nuovi che si potrebbero fare, se ho capito bene, sarebbero anche molto veloci, perché oggi il problema principale della velocità dei computer, per semplificare, è che bisogna spostare delle cariche elettriche. Dei dispositivi fatti con questi materiali non avrebbero bisogno di funzionare così. Beh, no, il concetto sarebbe completamente diverso. Diciamo che ci sarebbe un cambio di paradigma, no? Nel senso che uno non penserebbe più al trasporto di carica quanto all'inversione oppure alla creazione dello stato topologico, ammesso che poi questo possa essere realizzato concretamente. Certo, certo. Ecco, a questo proposito, quali possono essere i tempi per capire anche che cosa si può fare concretamente? Il grafene è passato molto rapidamente dalla scoperta, è stato scoperto nel 2004, nel 2010 è arrivato il Nobel e siamo già in presenza di molte applicazioni industriali. Voi che cosa vi aspettate per quanto concerne questi isolanti topologici? Ma Sì, il grafene esiste in natura, quindi è estremamente stabile. Invece per quanto riguarda gli xeni e tutta la classe degli isolanti topologici bidimensionali, bisogna sintetizzarli, quindi c'è un problema di stabilità che non è banale. Quindi bisogna ancora effettuare una lunga incubazione per quanto riguarda le parti di stabilizzazione dei materiali. Però è possibile pensare a delle evoluzioni nell'orizzonte temporale di 10 anni, tutto sommato, e questo è stato l'orizzonte temporale della genealogia degli xeni finora. Va bene, grazie. Grazie Alessandro Molle. Grazie a te, grazie a voi, grazie agli ascoltatori. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.